Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:15 minuti, un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo di IMU. Sarà la terza o forse la quarta puntata che Salva Danaio dedica a questo argomento. Ci sembrava doveroso perché le domande sono sempre tantissime e anche chi vi parla ancora non ha capito bene come deve muoversi. Quindi oggi, per aiutarci a comprendere meglio l'argomento al quale nessuno di noi può sfuggire, abbiamo come sempre illustri ospiti. Allora comincio da coloro che sono collegati telefonicamente con noi: il dottor Enrico Maria Sironi, notario del Consiglio Notarile di Milano, che saluto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. E il dottor Stefano Perego, responsabile del Centro Studi AGEFIS, Associazione dei Geometri Fiscalisti, buongiorno, benvenuto anche a lei. E buongiorno anche a voi e anche agli ascoltatori. E poi in studio con me un valorosissimo aiuto per me, il collega del Sole 24 Ore, Cristiano Dell'Oste. Ciao Cristiano. Buongiorno. Prima però di addentrarci nel nostro tema, vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Ci sono arrivate ovviamente tantissime domande anche tramite posta elettronica, cercheremo di tener conto un po' di tutte, facendo anche dei discorsi un po' più generali, magari cercando di uscire dal singolo caso concreto. Andiamo però velocemente sui mercati a vedere qual è la situazione. Oggi un'altra giornata molto nervosa, in questo momento Parigi cede quasi un punto percentuale, Francoforte lo 0,68%, Londra lo 0,82%, Milano è la peggiore, in questo momento il FTSE MIB cede l'1,97%, il FTSE All Share l'1,78%. Sul listino principale resiste Fiat Industrial al comando, più 2% in questo momento il guadagno, Pirelli guadagna l'1,24%, Campari lo 0,95% e poi Luxottica, Tozze e l'Automatica in positivo, tutto il resto è in rosso. Il titolo peggiore in fondo al listino, Monte dei Paschi, c'è del 6,89%, giù anche Unicredit che c'è del 6,14%, la Popolare dell'Emilia Romagna c'è del 4,63%. Sempre sotto pressione euro su dollaro, 1,2703 in questo momento. Velocemente anche sui differenziali, per quel che riguarda l'Italia, quindi BTP Bund 441 punti base, Spagna, Germania, quindi bonus Bund 486 punti base. Ricordiamo che questa mattina la Spagna ha collocato circa 2 miliardi e mezzo, titoli per circa 2 miliardi e mezzo nella forchetta, nella parte alta della forchetta prevista dal governo, ma con tassi di interesse in forte aumento. E allora dedichiamoci a noi, alla puntata di oggi, al tema di oggi, che è appunto l'IMU. In questo chiedo subito l'aiuto di Cristiano per tratteggiare un po' questa imposta municipale unica che tanto sta prendendo spazio non solo sui giornali ma purtroppo anche nelle nostre teste, nelle nostre vite, perché la scadenza si avvicina, la prima è quella del 18 giugno. Certo, è così, 18 giugno è la data entro cui va pagato l'acconto e lo spazio che tu dicevi nelle nostre teste purtroppo è inevitabile che venga occupato, perché il tributo è complicato, ci sono regole che sono cambiate ancora nelle ultime settimane, siamo ancora in attesa, si dice oggi, si dice domani, che potrebbe uscire di questa circolare del Ministero dell'Economia che noi abbiamo già commentato anche con gli esperti del Sole 24 Ore nei giorni scorsi sul giornale, commentando un po' la bozza a cui stanno lavorando i tecnici di Via 20 Settembre, ma chiaramente un conto è la bozza, un conto è il testo finale. Diciamo che una cosa importante l'hai già detta tu, è la scadenza del 18 di giugno, e che allo stato attuale la cosa importante da sapere è che si pagherà l'IMU secondo le aliquote nazionali. Non importa se il comune abbia già deliberato o abbia già in fase molto avanzata in questo momento la discussione sulle aliquote, si pagherà con le aliquote nazionali, quindi vuol dire 0,4% l'intervento sull'abitazione principale con la detrazione di 200 euro, eventualmente aumentata di 50 euro per ogni figlio, e 0,76% su tutti gli altri immobili, con l'unica eccezione dei fabbricati rurali strumentali che hanno l'aliquota dello 0,2%. Allora, io vorrei rivolgermi al notaio Enrico Maria Sironi per capire un po' come ci dobbiamo destreggiare tra l'aliquota, che tra la parte spettante al comune, tra la parte spettante allo Stato, perché anche lì il calcolo è sulle nostre teste, quindi siamo noi che quando dovremo andare a pagare dovremmo fare questa distinzione tra comune e Stato. Come ci dobbiamo organizzare? Allora, su questo tema diciamo che per quanto riguarda la prima casa non si pone il problema. Per quanto riguarda la prima casa, nell'F24 da utilizzare per il pagamento al 18 giugno c'è un unico codice tributo e noi dobbiamo fare il nostro conticino del 4 per 1000, ma è un'unica voce. Sì. Per quanto riguarda invece gli immobili diversi dalla prima casa, è il contribuente che deve distinguere l'imposta che va allo Stato da quella che va al Comune. Nella complessità di tutta la vicenda questa è l'operazione più semplice, perché il 50% va allo Stato, il 50% va al Comune. Questo per quanto riguarda almeno adesso la prima scadenza, quella di giugno, perché poi forse io penso, immagino che per dicembre, correggimi se sbaglio Cristiano, potrebbe cambiare qualcosa almeno per quel che riguarda i comuni. A dicembre il conteggio sarà molto più complicato, perché di fatto la quota dello Stato è la metà diciamo dell'aliquota ordinaria, quindi se l'aliquota ordinaria è 0,76%, la quota che va allo Stato è 0,38%. Se però il comune fisserà un'aliquota diversa, allora bisognerà andare a ragguagliare il conto sulla base di ciò che è già stato versato in acconto. Quindi diceva bene il notaio Sironi che ad oggi, in vista dell'acconto di giugno, il calcolo è abbastanza semplice, perché si paga lo 0,76, quindi basta dividere in due. Quando poi si dovrà andare a pagare, poniamo lo 0,92, se il comune avrà fissato questo tipo di aliquota, allora bisognerà rifare tutto il conteggio, ricalcolare lo 0,38 su tutto il tributo e andare a sottrarre quello che si è già pagato a giugno, e poi fare il conguaglio con la differenza tra quota statale e quota comunale. E lì sì che il conteggio diventerà più complicato e sarà difficile per un contribuente, diciamo, medio, che non ha un'assistenza professionale. Sì. Insomma, ci complicano un po' la vita, però io immagino che grazie al nostro aiuto, magari cercheremo di essere... Scusa, ho dimenticato di dire una cosa. Noi abbiamo detto 0,38, immaginando che la quota statale sia dello 0,38. Fino al 10 dicembre il governo può cambiare le carte in tavola, certo, e può stabilire che quello 0,38 diventa, poniamo, 0,41, per andarci a complicare ancora un po' di più la vita. Ecco, diciamo poi, tra l'altro, proprio sotto la scadenza, perché quella di dicembre è a metà, certo, dicembre, quindi diciamo... È al 17 di dicembre, sono 7 giorni prima. Sì. Poi è chiaro che logica vorrebbe che il governo intervenisse ben prima del 10 dicembre, e sarà così. Loro hanno messo questo termine del 10 perché entro il 30 di novembre vanno accatastati i fabbricati ancora iscritti al catasto dei terreni. Quindi il governo, l'ipotesi dei giorni scorsi era che potrebbe fare due decreti, uno per tutti gli immobili, diciamo, diversi dai rurali, che arrivi molto prima di dicembre, e poi tenersi il termine più lungo solo per quella partita di quei particolari fabbricati che saranno accatastati entro novembre. Allora, subito la prima telefonata, la signora Maria Pia da Savona. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Ci dica. Senta, mio figlio acquisterà a fine maggio un appartamento come prima casa, però poi sono necessari lavori di ristrutturazione che dureranno circa 4-5 mesi. Io volevo sapere, per favore, per questi mesi come devo pagare l'IMU? Allora, io giro subito la sua domanda al dottor Perego, anche perché questa è una domanda che ci è stata rivolta spesso anche nelle mail che sono arrivate, magari ovviamente con tempistiche un po' diverse, ma di persone che hanno acquistato, che acquisteranno, che rogiteranno a breve e poi dovranno fare dei lavori di ristrutturazione. Come devono comportarsi queste persone, dottor Perego? Diciamo che sostanzialmente l'aliquota agevolata del 4 per 1000 è applicabile solo in presenza differenza di, sia della residenza che del domicilio. Essendoci dei lavori in corso d'opera, non esiste quindi la possibilità del domicilio, e fino a quando tutti gli effetti l'immobile non verrà occupato e quindi con il domicilio, si deve applicare il calcolo con l'aliquota ordinaria del 7,6 per mille. Successivamente sarà possibile applicare l'aliquota agevolata e nonché anche le detrazioni rapportate esclusivamente ai residui mesi dell'anno. Allora, Ferdinando dalla provincia di Milano, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno a voi. Ci dica. È una cortesia, desidero sapere se anche la detrazione dei 200 euro, quello che sarà, va divisa per il numero di rate di pagamento dell'IMU. Allora, qui forse Cristiano ci può venire in aiuto, può venire in aiuto del signor Ferdinando. Che succede con queste detrazioni? Sì, è così, è come ha detto l'ascoltatore, va divisa per il numero di rate, quindi immaginiamo di scegliere di pagare l'IMU sull'abitazione principale in due rate, allora il proprietario, se è proprietario al 100%, avrà 100 euro da diciamo scontare a giugno e altri 100 da scontare a dicembre. Se invece immaginiamo fossero due con proprietari al 50%, allora avrebbero 50 euro a testa a giugno e a dicembre, perché ovviamente i 200 se li devono prima dividere tra loro. E se io voglio fare il caso complicato, e se invece io decido di pagare in tre rate, perché per l'abitazione principale è prevista anche questa possibilità, come mi devo... Allora a quel punto anche la detrazione va divisa in tre parti. La che prima... però diventa un po' difficile come calcolo. Entrano in gioco le virgole, ecco. Diciamo così. E tra l'altro possiamo dire una cosa, visto che abbiamo citato le virgole, che uno dei chiarimenti che sono contenuti nella bozza di circolare del Ministero è che tutti i pagamenti dell'IMU dovranno essere arrotondati all'euro, quindi poi quando si va a compilare il modello F24 non bisogna riportare le virgole. Attenzione, la circolare ci dice una cosa importante, perché uno a questo punto si potrebbe chiedere quando arrotondo. Ecco, bisogna arrotondare nei singoli righi di imposta, cioè ogni volta che c'è un codice tributo diverso si va ad arrotondare quell'importo del codice tributo. Quindi in questo caso, se uno deve fare il conto sull'abitazione principale, la detrazione non la arrotonda poi soltanto il risultato dell'operazione. Certo. Giovanni dalla provincia di Firenze, buongiorno, benvenuto anche a lei. Grazie. Ci dica. Grazie innanzitutto Radio 24. Grazie, ci dica. Stamattina sono stato alle poste. Sì. Va bene? È in banca, al Monte dei Paschi e alle poste. Mi serve un F24 per l'IMU. Sì. Ci hanno detto, ma noi un F24 per l'IMU non lo conosciamo, conosciamo quello che è previsto il pagamento dell'ICI. Ho capito, quindi lei giustamente si è trovato di fronte a un problema non da poco, perché comunque bisogna pur pagarla questa IMU in qualche modo. Cristiano, vuoi... Sì, è quello che è successo, è abbastanza normale, diciamo così, tant'è vero che la stessa risoluzione delle entrate che definisce il nuovo modello F24 ci dice che quello vecchio, quello per l'ICI, può essere usato ancora fino al 31 maggio dell'anno prossimo, se non vado errato, comunque sicuramente fino all'anno prossimo, perciò per pagare l'IMU va benissimo anche l'F24 che riporta ancora la dicitura ICI. L'importante è, quando si va a mettere il codice tributo, mettere i codici tributo nuovi, cioè quelli dell'IMU. Le 12:35 minuti, stiamo parlando di IMU. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri SMS. Ricominciamo subito dalle telefonate. Teresa dalla provincia di Novara, buongiorno, benvenuta signora Teresa. Buongiorno a lei. Ci Io dica. Sono single e unica proprietaria di due appartamenti siti nello stesso condominio, ma non adiacenti, che utilizzo direttamente entrambi come abitazione principale, con le relative forniture di servizi e tarso a me intestate. Domanda: possono essere considerate entrambe abitazioni principali fini dell'IMU? Mi pare che per la vecchia ICI c'era questa possibilità, in base a una sentenza del SAR. Quale? Allora, dunque, dato che io di questo argomento ho parlato già precedentemente, prima della trasmissione, con il dottor Perego, perché ci sono arrivate alcune domande via posta elettronica, vorrei con lui riaffrontarlo, anche se è un tema un po' delicato e sul quale forse il dottor Perego può, come dire, diradare un po' le nubi che ci sono su questo specifico argomento. Allora, io... Diciamo che nel caso della signora, poiché gli appartamenti non sono contigui, il problema dell'ipotesi di una fusione che abbiamo, nel quale abbiamo parlato nella precedente trasmissione, non si pone. La signora purtroppo deve applicare l'aliquota agevolata esclusivamente su un unico appartamento, anche se nello stesso condominio. E sul secondo appartamento purtroppo deve applicare l'aliquota ordinaria. E il problema che avevamo posto nella precedente trasmissione era quando gli appartamenti erano contigui e quando era possibile considerarli un unico appartamento. In quel caso era stato consigliato di procedere a una fusione, perché fin tanto che non si procede a una fusione degli appartamenti, al catasto risultano due appartamenti distinti. Sì. Va bene, direi che questo è il concetto di base. Poi la fusione, alcune agenzie del territorio non la ritengono possibile, ma solo ed esclusivamente quando vi sono delle proprietà intestate a persone diverse. Allora, vediamo di accelerare un po' e cercare di andare avanti e affrontare altri quesiti. Alessandro da Roma, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ci dica. Allora, la mia è una situazione un po' complessa e ingarbugliata. Lo vedo dalle linee che mi hanno scritto dalla redazione, mi dica. Esattamente. Allora, io abito alla residenza e sono proprietario di un appartamento in una città. Poi abbiamo altri due appartamenti. Mia moglie è proprietaria di un appartamento il cui usufrutto è dato a titolo gratuito ai suoi genitori, quindi ai miei suoceri. In più esiste un terzo appartamento di proprietà dei miei suoceri in un altro comune diverso, sì, in cui effettivamente risiede mia moglie con i due nostri bambini. La domanda è, l'IMU come va ripartita tra le tre abitazioni, la detrazione per abitazione principale se c'è e spetta, e quella per i bambini a chi tocca? Allora, la situazione è veramente un po' ingarbugliata, cerchiamo se possiamo di fare un po' di ordine, chiedo l'aiuto del notaio Enrico Maria Sironi. Dottor Sironi, qui ci sono tre case, la prima in cui vive è intestata al nostro signor Alessandro e dove lui è residente, la seconda della moglie, però dove vivono i genitori attraverso l'usufrutto, e una terza casa di proprietà dei genitori della signora dove vive la signora con i suoi figli. Sì, allora, l'abitazione dove vive Alessandro, che vive, sembra di capire, da solo, comunque senza i figli conviventi, è sicuramente prima casa perché è di sua proprietà, lui lì ha la residenza e lì effettivamente dimora. Sì. Prima casa paga il suo 4 per 1000. L'abitazione intestata alla moglie, in cui vivono i genitori, sì, bisogna capire con certezza, perché Alessandro ha detto vivono in usufrutto gratuito. Sì. Sì. Non vorrei che ci fosse un equivoco, una confusione tra usufrutto e comodato. Sì. Il comodato gratuito è l'utilizzo a titolo proprio di piacere, il prestito, diciamo, in sì, linguaggio volgare. Sì. Allora, se i genitori vivono in prestito nella casa della figlia, il prestito non ha rilevanza ai fini IMU, sì, il debitore d'imposta è la figlia, che deve pagare come seconda casa, perché non ci vive. Perfetto. Se invece è un vero e proprio usufrutto, cioè sì, un diritto reale che risulta da un atto notarile, sì, allora il debitore d'imposta è l'usufruttuario e quindi i genitori pagheranno con il 4 per 1000 e avranno la detrazione dei 200 euro. Sì. L'abitazione di proprietà dei suoceri in cui vive la moglie di Alessandro con i figli, questo presumo proprio che sia un comodato gratuito. Sì. In questo caso debitori sono i suoceri, non ci vivono, non possono quindi considerarla prima casa né avere alcun tipo di detrazione. Perfetto. Mauro dalla provincia di Alessandria, buongiorno. Dottoressa, buongiorno. Ci dica. Intanto la ringrazio per la possibilità che mi avete dato. Dunque, come ho già anticipato ai suoi collaboratori, il mio intervento è totalmente in controtendenza e sentirà per quale motivo, ma non perché sia un seguace della buonanima che aveva detto che è bello pagare le tasse, sì, ma semplicemente perché voglio spezzare una lancia a favore del comune in cui vivo. Sì. Si tratta del comune di Altavilla Monferrato, siamo 500 abitanti, comprese le frazioni. Ebbene, incredibile ma vero, ma il comune di Altavilla Monferrato è nella persona, sì, del sindaco e della sua amministrazione, è il classico esempio di ciò che un'amministrazione locale può fare dotandosi di un po' di buona volontà. Cioè vi calcola esatto, l'IMU. Esatto, in mezzo a tutta questa complicazione il comune virtuoso perché vi viene incontro. Certo. E ci manda a casa. Allora io forse grazie. La stupirò, grazie a lei, forse la stupirò e forse in questo Cristiano mi può aiutare, ma credo che non sia l'unico comune che va incontro ai suoi cittadini, a parte il fatto che con 500 anime è abbastanza facile tra virgolette andare incontro ai propri cittadini e cercare di alleviargli almeno questa incombenza, insomma. Certo, guarda, è così, ci sono anche alcuni comuni insomma ormai diversi che hanno iniziato a mettere sul proprio sito istituzionale dei calcolatori, quindi si può andare su internet, sul sito del comune e fare il conteggio. Peraltro diciamo che in questo momento va bene anche il calcolatore che abbiamo sul sito del Sole 24 Ore, perché come dicevamo prima si paga con le aliquote nazionali. Certo. L'assistenza dei comuni diventerà poi veramente importante quando al momento del saldo, quindi a dicembre, si pagherà con le aliquote comunali. Allora lì sì che sarà importante, perché i comuni hanno ampi margini per variare le aliquote al rialzo, al ribasso, cambiare la detrazione, e allora servirà davvero un supporto, perché altrimenti i cittadini, soprattutto gli anziani, i pensionati, rischiano poi di rimanere disorientati da un'imposta che è abbastanza diversa rispetto all'ICI, anche se la base è sostanzialmente la stessa. Claudio da Brescia, buongiorno, benvenuto. Allora, la domanda riguarda la compilazione dell'F24. Sì. Esattamente nell'indicazione del numero di rate e del numero degli immobili. Per le rate c'è una casella dove dice rateazione, però sembra che questa non debba essere compilata, quindi mi chiedo come faccio nel caso del pagamento in due rate a indicare a esprimere la mia volontà di pagare in due rate. Sì. E nel caso invece del numero degli immobili, avendo una casa, un'abitazione principale e la relativa pertinenza, sì, se devo indicare uno come immobile o due. Allora, Claudio da Brescia, Cristiano, ci puoi aiutare almeno nella prima parte, poi sulle pertinenze aprirei anche un altro discorso con sì, gli altri ospiti. Sì, sì, allora diciamo che quello che solleva il nostro ascoltatore in realtà è un problema che c'è oggettivamente, perché se va a vedere, come ha fatto il nostro ascoltatore, le istruzioni al modello F24 appena approvate, dice che la casella del numero di rate non è da compilare. Questo perché? Perché quando è uscito il modello F24 sì, con le sue istruzioni, il Parlamento non aveva ancora convertito il decreto fiscale, che è quello che dà la possibilità di pagare solo sulla prima casa, ricordiamolo, l'IMU in tre rate anziché in due, quindi sostanzialmente per chi vuole di aggiungere una rata da versare entro il 17 di dicembre. Sicuramente nel modello F24 va barrata la casella acconto, questo possiamo dirlo. Sul numero di rate al momento c'è un punto di domanda. Logica vorrebbe che si dovesse scrivere due per chi appunto paga in due rate, sì, e tre per chi paga in tre rate. Al momento però questa istruzione non c'è, è probabile che le entrate la integreranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Dovendo pagare in questo momento, forse si può lasciare la casella in bianco attenendosi alle istruzioni e limitarsi a barrare la casella acconto se si paga in due rate, sostanzialmente. Per il problema degli immobili, invece, io direi, poi magari possiamo sentire anche Perego se è d'accordo, ma si può indicare 0,2 appunto sugli immobili se quella pertinenza che citava il nostro ascoltatore è censita a parte, cioè se mettiamo un garage censito al catasto come C6. Se invece è una pertinenza come la cantina, che sta di fatto nella stessa unità immobiliare della casa, perché è censita, sì, con la casa, si indica 1. Allora andiamo su Andrea da Modena, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Ci dica. A voi. Senta, volevo sapere qualche notizia sempre a proposito dell'IMU per un negozio situato in un immobile che è vincolato alla sovrintendenza beni storici culturali. Allora, e, sì. perché ci dovrebbe essere qualche novità. Prima l'ICI, con l'ICI c'erano delle sentenze della Corte di Cassazione, erano agevolate queste. Dunque, vediamo se il notaio, il dottor Sinonin, ci può aiutare in questo. Allora, per gli immobili vincolati alla sovrintendenza, l'IMU è peggiorativa rispetto alla disciplina dell'ICI. Con l'IMU l'unica agevolazione che c'è è quella della riduzione al 50% della base imponibile, cioè del valore dell'immobile e quindi poi dell'imposta. Il problema è che rispetto a prima, quando la base imponibile era calcolata in misura molto ridotta, qua il meccanismo di calcolo è lo stesso: rendita catastale moltiplicata per 1,05 per attualizzarlo al 5% e poi moltiplicata per l'ulteriore moltiplicatore che è 160 per l'abitazione, il signore parlava di uffici e quindi di negozi, quindi il moltiplicatore è 55, il risultato lo si divide per 2 e su quello si applica l'imposta. Questa è l'unica agevolazione che è rimasta per gli immobili di interesse storico-artistico. Però è locato questo immobile? Com'è? Sì, è dato in affitto questo immobile. E quindi non è il 50, attenzione. Dovrebbe essere, io così ho capito. Allora, Cristiano, diciamo che qui ci sono due cose da tenere presenti. Cioè, per quanto riguarda l'IMU, è ovviamente corretto quello che diceva il notaio. Poi, ovviamente, se si tratta di un immobile affittato, bisognerà pagare le imposte sull'affitto. E allora sull'affitto c'è ugualmente un peggioramento, perché gli immobili storici pagavano in precedenza di fatto su un affitto figurativo, diciamo, ricavato dalla tariffa d'estimo. Sulla rendita. Esatto, ricavato dalla rendita catastale. Adesso invece si deve dichiarare in IRPEF il reddito. Quindi sostanzialmente qui l'aggravio è molto molto pesante. Quindi sono due però partite distinte: da un lato l'imposta patrimoniale, quindi l'IMU, sì, e dall'altra l'eventuale pagamento dell'IRPEF sul reddito che si ricava da questo immobile. Maurizio dalla provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Volevo avere un'informazione rispetto all'aliquota dell'IMU. Io ho comprato una casa come prima casa in cui ho la mia residenza, però è con un patto di futura vendita, quindi in questo momento una specie di contratto di locazione. Quindi volevo capire un attimo che tipo di aliquota mi verrà applicata nel calcolo dell'IMU. Dottor Perego, ci può aiutare in questo caso? Ma un patto di futura vendita, se il patto è sottoscritto, diciamo, a livello notarile, a tutti gli effetti potrebbe essere considerato già come abitazione principale, quindi potrebbe applicare l'aliquota agevolata dello 0,4 per mille. Se invece non è a tutti gli effetti un atto notarile, no, si applica l'aliquota ordinaria. Allora, bisognerà quindi vedere nel caso specifico del signor Maurizio qual è la sua situazione. Mentre noi ovviamente parlavamo anche con gli ascoltatori, sono arrivati tantissimi sms, ovviamente non potremo rispondere a tutti, adesso ne sceglieremo alcuni e ad esempio questo signore: vivo in una casa di proprietà ma sono residente in un altro comune presso la casa di mia madre, posso usufruire dello sconto prima casa? Cristiano, in questo caso che succede? Purtroppo no, se lui vive in una casa che è di sua proprietà deve trasferirci la residenza, è meglio che lo faccia. Non so per quale motivo risulta ancora residente con la madre in un altro comune, però l'IMU, per poter avere gli sconti abitazione principale, quindi l'aliquota ridotta e la detrazione, impone di avere nell'immobile di cui si è possessori sia la dimora che la residenza, entrambi i requisiti, uno solo non basta. Altro sms che in qualche modo ricorda anche alcune delle mail che sono arrivate: alla morte di mio padre ho ereditato la legittima nella casa dove vive mia madre, devo pagare l'IMU? Questo ce lo chiede il signor Lino da Genova. Dottor Sironi. Allora, se il papà è deceduto in anni sufficientemente recenti, cioè dopo il 75, quindi è probabile che sia così, sì, la legge attribuisce al coniuge superstite il diritto d'abitazione sulla casa di vita residenza familiare. Il diritto d'abitazione è un diritto reale simile all'usufrutto, il debitore d'imposta quindi è la mamma per l'intera sì. Appartamento, e quindi la mamma pagherà lei l'IMU con la prima casa e i figli che hanno questa proprietà gravata d'abitazione non devono versare l'IMU. Invece al dottor Perego voglio rivolgere questo quesito che ci è arrivato tramite mail, e che è un'ipotesi di una situazione: una casa che viene comprata, che è stata comprata ad aprile, però il matrimonio tra i due sarà tra pochi giorni, i due traslocheranno poi ai primi di luglio. In questo caso come si calcola l'IMU? Partirà da luglio, deve partire dalla data di acquisto della casa, come si computa? Diciamo che l'IMU è una tassa che tassa proprio a tutti gli effetti il possesso, e pertanto decorre dalla data in cui è stato stipulato l'atto di acquisto, sì, da aprile. Non rileva il fatto che vi siano dei coniugi o che siano già sposati o meno. Diciamo che è importante invece che i possessori vi dimorino e vi risiedano. Quindi diciamo, se loro contano di sposarsi, di andare a occupare l'immobile a luglio, sì, da aprile a luglio, sì, l'immobile e quindi i proprietari sono soggetti ad aliquota ordinaria, sì, e quindi parliamo dello 0,76%. Sì. Diversamente, invece, dal momento in cui andranno a occupare l'immobile potranno soggettare l'imposta ad aliquota agevolata, e solo da quel momento avranno poi titolo anche per usufruire delle detrazioni. Le detrazioni delle pari a 200 euro si ricorda che devono essere sempre rapportate al periodo dell'anno in cui l'immobile è effettivamente occupato come abitazione principale. Perfetto, velocissimamente vado da Claudio da Milano, al quale chiedo di essere brevissimo. Sì, buongiorno. Ci dica. Io sono proprietario di un appartamento dove ho la residenza e la dimora non è continuativa durante l'anno. Mi spiego, ci sono alcuni mesi che io risiedo per lavoro presso un altro appartamento che divido con altri colleghi. Sì. Per usufruire dell'agevolazione prima casa, sì, la dimora deve essere continuativa per 365 giorni? Allora, dottor Sironi, chiedo a lei proprio una risposta spot, perché siamo in chiusura. Spot, ma è una risposta difficile, diciamo che dipende. Io farei una proporzione, tutto sommato. Se per la maggior parte dell'anno effettivamente abito a Milano, sì, probabilmente si può anche forzare e versare tutto come prima casa a Milano. Altrimenti bisognerebbe fare una proporzione e quindi spezzare l'anno in 12. La devo salutare, la ringrazio moltissimo, ringrazio lei dottor Sironi, ringrazio il dottor Perego, ringrazio il collega Cristiano Dell'Osse che è intervenuto con noi oggi per questa puntata. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.